Pasco Senge, yo me la canini. Nana me la cascol. Alors, tabu, me la canini. Ya me la caminic. Ayo me, yo me la canini. Oh, Stanor, se bon. Stanor, Sanga ya malamu, tome la stanore, masanga ya lokumu, tome ke stanore, bana e balawe, tome ke stanore, bana ba ofoka, masanga ya malamu. Tome la stanore, masanga ya lokumu. Tome ke stanore, bana e balawe. Tome ke stanore, bana ba ofoka. Ikofile Bonne Fuga Chuba Suba Fuga Chuba Fuga Suba Fuga Alors Saka Salam Sala Come on.